giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Qatar Gate, i fondi della ONG di Panzeri versati al sindacato, spiega il friulano Visentini e si autosospende dalla Confederazione dei Sindacati. 350 milioni a Danieli dalla Banca Europea degli Investimenti, a Butrio il punto sugli effetti economici della guerra e sulla Confindustria, unica regionale. Sarà più facile rinegoziare il mutuo casa da variabile a fisso, ma in regione i rialzi dei tassi frenano la richiesta di prestiti. Niente cassa integrazione alla Freud ai lavoratori, chieste ferie del prossimo anno e permessi non pagati, denuncia la UIL. Via libera al contestato palazzo di 12 piani da costruire a Pordenone, il tema accende i toni in consiglio comunale. Crollano le nascite in Italia, meno 1,1% rispetto all'anno scorso e peggio va in Friuli Venezia Giulia, meno 2,2%. Unica con il segno più è Pordenone. Il Covid ritarda le diagnosi in campo oncologico, in aumento forme avanzate di tumori in Friuli Venezia Giulia, 9.000 nuovi casi. Straordinari del personale dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, tutti i sindacati firmano l'accordo, scoperte 200.000 ore. Nuovo portale online del Comune di Trieste sui servizi educativi in città, sul sito tutte le informazioni su asili, nido e ricreatori. Il San Giusto d'Oro al cardiologo Sinagra, vicino ai pazienti, docente appassionato, ha fatto crescere il nome della cardiologia regionale. 7:19 minuti di martedì 20 dicembre, buongiorno da Anna Vitaliani e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo. Il cielo è nuvoloso sulla costa, poco nuvoloso sul resto della regione. Le temperature registrate alle 6 a Trieste 4 gradi, a Gorizia 1 grado, a Udine meno 1 grado e 5 decimi, a Pordenone meno 2 gradi, a Tolmezzo 1 grado sotto lo zero, a Forni di Sopra meno 2 gradi, a Treviso sul Piancavallo meno 3, a Sappada meno 5 gradi, sul Monte Zoncolan 4 gradi positivi, sul Lussari 5 gradi, a Grado e Lignano 4 gradi. Ora le previsioni dell'ARPA. Oggi su bassa pianura e costa cielo da nuvoloso a coperto per nubi basse con possibili foschie e qualche debole pioggia piovigine sulle zone orientali, specie in serata. Sulle altre zone, specie sui settori montani più interni, da poco nuvoloso a variabile per velature con inversione termica e gelate notturne a fondovalle. Intossicazione da monossido di carbonio per una giovane coppia è successo intorno a mezzanotte e mezza in una casa di Tricesimo lungo la Pontebbana. Sarebbe stato uno dei due a chiamare il 112. Sul posto un'ambulanza inviata dalla Sores e i vigili del fuoco. All'arrivo dell'equipe sanitaria la coppia era vigile, sebbene uno dei due fosse in stato confusionale. I due sono stati prima portati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, quindi trasferiti in volo con l'elisoccorso a Cattinara per il trattamento in camera iperbarica. Passo indietro dalla guida dell'ITUC, la Confederazione Internazionale dei Sindacati, di cui è segretario generale per Luca Visentini, ex segretario UIL del Friuli Venezia Giulia, coinvolto nel Qatar Gate. Visentini ha confermato ieri in una nota di aver ricevuto una donazione inferiore a 50.000 euro da Fight Impunity, la ONG fondata da Antonio Panzeri, ex eurodeputato accusato di corruzione. Il denaro, scrive Visentini, è servito per rimborsare alcuni costi della campagna per il congresso della Confederazione Internazionale dei Sindacati, e Visentini riferisce di aver trasferito la somma al Fondo di Solidarietà ITUC. Nulla è stato chiesto a o da Visentini, si legge ancora nella nota, né alcuna condizione è stata posta in cambio del denaro. Il sindacalista originario di Udine ha ribadito di aver agito sempre in buona fede e che farà tutto il necessario per dimostrare la propria innocenza e di aver deciso per questo di farsi da parte dalla posizione e dalle funzioni di segretario generale della ITUC fino alla riunione del Consiglio generale di domani, quando la questione sarà valutata. Il sindacalista ha aggiunto che la sua posizione nei confronti del Qatar non è cambiata nel tempo, di aver sempre chiarito pubblicamente che è necessario esercitare pressione pressioni sul paese e sulle aziende che vi operano per ottenere la piena tutela dei diritti umani dei lavoratori, riparazione delle violazioni esistenti e risarcimento delle vittime, una pressione, aggiunto, che deve continuare anche dopo la fine dei mondiali di calcio. Il gruppo Danieli ha ricevuto un finanziamento da 350 milioni di euro dalla BEI, la Banca Europea degli Investimenti, fondi che saranno destinati alla produzione con nuove tecnologie green. Un prestito da 350 milioni di euro per sviluppare tecnologie innovative nella produzione di acciaio è l'assegno staccato dalla Banca Europea per gli Investimenti al gruppo Danieli. Soldi destinati all'efficientamento degli impianti, alla riduzione dei consumi energetici, al riutilizzo di sottoprodotti e al recupero di altri metalli dei rottami per fare l'acciaio. Il 65% del finanziamento rimarrà in Italia, il 35% è destinato alla sede croata di ABS. Si stima che i progetti finanziati creeranno 250 posti di lavoro. Gelsomina Vigliotti, vicepresidente per l'Italia della BEI. Un terzo dei finanziamenti della BEI nel settore siderurgico a livello europeo sono arrivati in Italia e Danieli è sicuramente un'eccellenza nel settore. Nei prossimi anni la disponibilità del rottame e l'accesso alla materia prima saranno i temi chiave per avere una filiera competitiva, ha ricordato il presidente del gruppo Gianpietro Benedetti. Dalla Russia arrivavano minerali, ma anche circa il 10% dei ricavi. Alessandro Brussi, direttore amministrativo finanziario del gruppo Danieli. Oggi come oggi lavorare in Russia è estremamente complesso per motivi sia finanziari ma anche di limiti, che è quasi zero il mercato russo, diciamo, per noi adesso. Dopo la firma sull'accordo, chiediamo a Benedetti, presidente degli industriali di Udine, a che punto sono i colloqui con Confindustria Alto Adriatico per rendere Confindustria FVG un soggetto davvero competitivo a Nord-Est. Se ci sono delle aperture, così lo vedremo, però fare queste cose senza aver ben chiaro un valore aggiunto, no? Perché possiamo parlarne, però alla fine contano i fatti e non le parole. Buttrio, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. FriulChem PMI attiva nella ricerca e nello sviluppo e nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, con particolare specializzazione per il settore veterinario, attraverso la sua controllata FC France, ha acquisito il 70% di Arca Natura, società francese specializzata nella cura delle patologie degli animali da affezione. La società, con stabilimento produttivo a Vivaro, ha sottoscritto un aumento di capitale di 400.000 euro in FC France, arrivando a detenerne il 75%. C'è preoccupazione tra le migliaia di cittadini del Friuli Venezia Giulia che pagano un mutuo a tasso variabile, che ora si trovano di fronte all'aumento dei tassi, in calo anche i nuovi mutui stipulati. A conti fatti, per chi in Friuli Venezia Giulia ha stipulato un mutuo a tasso variabile, il rialzo di 2 punti percentuali già effettuato dalla Banca Centrale Europea costerà una quarantina di milioni l'anno, considerando solo quelli che hanno contratto un prestito per la casa negli ultimi 5 anni, in media circa 150 euro al mese a testa, che se ne vanno da conti correnti già alleggeriti dall'inflazione. E altri rialzi di tassi sono stati annunciati per i prossimi mesi. La stima si può ricavare dal rapporto di Banca d'Italia, che parla di un 40% di mutui a tasso variabile in Friuli Venezia Giulia, per un valore totale di 2 miliardi nell'ultimo quinquennio. In questo contesto il governo ha inserito in manovra di bilancio un emendamento per rendere meno oneroso il passaggio da variabile a fisso, a condizione che il prestito sia inferiore ai 200.000 euro e l'ISEE del richiedente sotto i 35.000. Un'arma in più per chi si ritrova a rate in crescita costante e che già oggi può mantenerle su livelli sostenibili, a patto che la banca conceda un allungamento della durata del prestito. I rialzi hanno frenato la richiesta di nuovi mutui che, secondo un'analisi FABI, Federazione Bancaria Italiani, potrebbero presto costare fino al 6% di tasso di interesse annuo. Gabriella Rusca, FABI Trieste. Anche prima di quest'ultimo aumento di 0,5 punto percentuale dell'altro giorno, c'è stato negli ultimi mesi un raffreddamento da parte della clientela per la stipula di nuovi contratti di mutuo. La gelata sui nuovi prestiti si è verificata soprattutto sui mutui per i giovani fino a 35 anni garantiti dallo Stato, dice Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi. In ogni caso va ricordata la possibilità di rinegoziare i finanziamenti se le condizioni torneranno favorevoli in futuro, con la facoltà anche di cambiare banca. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella manovra regionale di bilancio appena approvata c'è poco sostegno alle famiglie, a dirlo le segreterie regionali di CGIL, CISL e UIL, secondo cui una delle finanziarie più ricche nella storia del Friuli Venezia Giulia, che ha mosso oltre 5 miliardi di euro, preceduta da due assestamenti per oltre 1 miliardo, si mostra generosa con le imprese, le associazioni, gli enti colpiti dai costi energetici, ma non è altrettanto sensibile con la popolazione alle prese con bollette esorbitanti. Secondo i sindacati, pur comprendendo la visione di lungo periodo sugli investimenti nel tessuto produttivo, soprattutto nell'autosufficienza energetica, nell'immediato c'è necessità di alleviare la pressione sulla società colpita dalla crisi energetica, potenziando significativamente le misure redistributive verso la parte della popolazione più bisognosa e per le famiglie. Rallenta la crescita dell'occupazione nel terzo trimestre 2022 in Friuli Venezia Giulia, in linea con le tensioni sui prezzi al consumo e alla produzione. In questi ultimi 3 mesi dell'anno il numero di occupati è pari a 516.000, in calo rispetto al dato del secondo trimestre di 537.000. Lo rileva l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, ma se si considera l'andamento annuale, il livello occupazionale rimane comunque elevato. La media dei primi 9 mesi si attesta a oltre 523.000, con una crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso pari a oltre 16.000 unità. La crescita dell'occupazione si deve soprattutto all'industria, che cresce del 3,9% rispetto al 2021, e anche alle costruzioni, dove gli occupati salgono del 3,8%, bene anche il terziario e il comparto commercio, alberghi e ristoranti, tutti con una crescita del 2,5%. Carichi di lavoro in calo a dicembre alla Freud, ma invece che aprire una cassa integrazione, l'azienda friulana, che fa parte del gruppo Bosch, ha chiesto ai suoi dipendenti di scegliere se stare a casa a dicembre con giornate di ferie in negativo, quindi da recuperare il prossimo anno, o utilizzare permessi non retribuiti. A denunciarlo il segretario dei metalmeccanici della UIL di Udine, Giorgio Spelat. La Freud occupa circa 700 persone tra Pavia di Udine, Martignacco, Coloredo di Monte Albano e Fagagna. La scelta, è stato riferito al sindacato nel corso di assemblee, andrebbe effettuata attraverso un modulo che, dice Spelat, di fatto scarica sul lavoratore la responsabilità della richiesta. Il sindacato ha inviato una diffida all'azienda, che non ha ancora risposto. Da fine settembre e nei mesi a seguire, ricorda infine la UILM, molti lavoratori somministrati sono stati lasciati a casa a dimostrazione delle difficoltà produttive di questa fase. Istat, record di calo di natalità in Italia. I dati appena diffusi nel rapporto annuale su natalità e fecondità sono molto negativi, crollate di quasi il 35% le nascite dei primogeniti rispetto al 2008. Già rispetto solo a un anno fa sono circa 6.000 i bambini in meno, e il calo progressivo e inarrestabile è iniziato 14 anni fa e non si è mai fermato. Per il Friuli Venezia Giulia abbiamo un record negativo per la natalità, infatti con 7.269 nati la diminuzione è stata del 2,2% rispetto all'anno precedente, quindi il doppio di quella che è stata invece registrata a livello nazionale, che è meno 1,1%. E in particolare ci sono alcune differenze però fra le province, ad esempio Gorizia ha presentato una variazione negativa del meno 8,9%, quindi più accentuata, e mentre in contrasto si trova la situazione di Pordenone, che invece sempre rispetto all'anno precedente ha registrato un aumento, più 1,9, un lieve aumento. Che cosa succede per il numero medio dei figli per donna? Anche il tasso di fecondità totale, quindi il numero medio dei figli per donna, è praticamente 1,25 per il Friuli Venezia Giulia, che è identico a quello registrato a livello nazionale, ma anche in questo caso ci sono alcune differenze fra le province. E in generale il nord-est ha un tasso di 1,31, quindi un pochino più alto, e a Pordenone invece il valore è ancora più elevato, 1,35, e mentre Gorizia ad esempio ha un numero medio di figli per donna delle donne straniere pari a 2,58, quindi particolarmente elevato. controbilanciato però da uno molto basso delle donne italiane, 1,01. Ricordiamo che per garantire il ricambio generazionale ci vorrebbe un livello 2,1, quindi diciamo siamo comunque molto al di sotto per quanto riguarda il livello complessivo di tutte le donne, al di sotto di quello che garantirebbe questo ricambio. Poi infine l'età media, anche in questo caso è in linea con il livello nazionale, il valore 32,3. Come abbiamo sentito da Antonella Guarneri, ricercatrice dell'Istat, la nostra regione non si scosta dal quadro negativo registrato in tutta Italia rispetto alla crisi della denatalità. Eppure sono numerosi gli strumenti messi in campo negli ultimi 4 anni per favorire un'inversione di rotta. Ne ricordiamo alcuni con Elisa Marzinotto, responsabile del servizio famiglia della regione Friuli Venezia Giulia. La Regione sta investendo oltre 70 milioni di euro per garantire alle famiglie del territorio regionale un insieme di misure economiche e servizi a loro dedicati. In primis abbiamo l'aiuto dell'abbattimento rette per gli asili nido, i servizi educativi per la prima infanzia, dedicato a tutte quelle famiglie che hanno figli dallo 0-3. Ma non da ultimo è stata avviata anche Dote Famiglia. Dote Famiglia è un'importante misura che vuole andare a riconoscere un contributo a tutte le famiglie che hanno un figlio minore a carico e accedono ad attività sportive, musicali, centri estivi, servizi turistici e culturali. Dote Famiglia è una misura che prevede un contributo di 500 euro a figlio minore. Oltre a questo abbiamo l'incentivo di Dote Scuola, che è un incentivo che vuole accompagnare le famiglie che hanno dei figli iscritti alle scuole superiori, alle scuole secondarie, e non da ultimo tutte le misure economiche rivolte al diritto allo studio universitario. Le chiedo però come fare ad informarsi sulle misure che effettivamente ci sono, tanti progetti sono anche nazionali, come trovare di fatto l'informazione giusta? Da luglio di quest'anno abbiamo messo a disposizione a tutte le famiglie del territorio regionale un'applicazione, si chiama Famiglia FVG, è possibile scaricarla dal sistema iOS e Android ed è un'opportunità per le famiglie per andare a leggere tutte quelle che sono le misure regionali a loro dedicate e possono essere reindirizzate direttamente alle pagine per conoscere anche le scadenze dei bandi e le modalità per fare domanda. L'applicazione è stata pubblicata a luglio e nel giro di 2 mesi ha avuto più di 6.000 download ed sta avendo molto apprezzamento da parte delle famiglie. Sarà operativo da questa mattina all'ospedale di comunità all'interno dell'ITIS, l'ente per anziani di Trieste, con a disposizione 20 posti letto iniziali che arriveranno ad un totale di 40 nel mese di febbraio. Si tratta di una prima importante risposta all'emergenza registrata nel pronto soccorso di Cattinara a causa anche dell'influenza stagionale. L'ITIS non è destinato ai ricoveri di tipo esclusivamente sociali, ma ai pazienti residenti o con domicilio sanitario nell'area giuliana che a seguito di un episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione di patologie croniche necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio. La permanenza è compresa di norma tra i 15 e i 20 giorni con estensione massima di 30 giorni. La pandemia ha ritardato molte diagnosi in campo oncologico e sono in aumento forme avanzate di tumori. Lo evidenzia Diego Serraino, epidemiologo del CRO di Aviano. In Italia sono circa 390.000 i nuovi casi di tumore diagnosticati, con un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Emerge dalla relazione sui numeri del cancro 2022, pubblicazione presentata dal ministro della Salute Orazio Schillaci. L'analisi mette in evidenza come la pandemia di Covid-19 abbia determinato una battuta d'arresto nella lotta al cancro, causando in Italia un forte rallentamento delle attività diagnostiche in campo oncologico, con conseguente incremento delle forme avanzate della malattia. Gli anziani rappresentano il 65% dei casi. Il 30% dei casi di donne con un tumore riguarda il cancro alla mammella, 56.000 nuove diagnosi. Tra gli uomini, il tumore alla prostata rappresenta il 25% dei casi, circa 40.000. In Friuli Venezia Giulia sono 9.000 i nuovi casi diagnosticati, 1.200 sono tumori alla mammella, 900 alla prostata. Diego Serraino, epidemiologo del CRO di Aviano, sottolinea anche il dato di 1.400.000 persone con un tumore guarite su 3.600.000 affette da queste gravi patologie. In aumento tra le donne il tumore ai polmoni, su cui incide il principale fattore di rischio, il fumo, mentre cala l'incidenza tra gli uomini. Infine, uno studio condotto proprio dal CRO di Aviano con l'azienda regionale di coordinamento alla salute del Friuli Venezia Giulia su un campione di 10.000 pazienti con tumore mostra come il 20% dei non vaccinati presenti un rischio di morte 3 volte superiore alle persone vaccinate. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. C'è la firma di tutti i sindacati della sanità sull'accordo per l'assegnazione delle risorse aggiuntive regionali per il personale del comparto sanità dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. In ballo ci sono quasi 7 milioni e mezzo di euro sul 2022. Insieme ad altri fondi della Regione previsti per le prestazioni aggiuntive e gli straordinari andranno a liquidare nel 2023 circa il 40% delle 400.000 ore aggiuntive lavorate quest'anno dagli 8.000 dipendenti del comparto sanità dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, medici esclusi. Restano scoperte oltre 200.000 ore, ricordano i sindacati, sottolineando il grande sforzo compiuto dal personale di ASUFC a fronte delle persistenti carenze di organico. Dalle parti sociali, unanime la richiesta di ulteriori fondi per arrivare a una copertura più ampia delle ore lavorate, risorse che i vertici dell'azienda sanitaria hanno risposto di aver già richiesto alla Regione. Entro i prossimi 10 giorni, intanto, sarà deliberata la graduatoria dei beneficiari di fascia economica aggiuntiva, che vedrà riconoscere un aumento in busta paga ad oltre 3.000 dipendenti, un risultato di cui la UIL rivendica il merito. La sigla, l'accordo per l'assegnazione delle risorse aggiuntive regionali 2022 è giunta su tavoli che sono rimasti separati, CISL, CGL, FIALS da una parte, UIL e NURSIND dall'altra, posizioni distinte anche nei comunicati diffusi ad accordo raggiunto, a conferma di divisioni tutt'altro che risolte. Non entra nel merito delle polemiche la CGL, che si dichiara soddisfatta dell'intesa, mentre per UIL e NURSIND, che per prime l'avevano sottoscritta a inizio dicembre, si è perso tempo inutilmente a discapito di tutti i lavoratori. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Bilancio di previsione approvato in serata per il comune di Trieste, lo stesso fa il Consiglio Comunale di Pordenone, sono tra i primi comuni capoluogo in Italia a chiudere i conti, ma ad animare il dibattito a Pordenone è stata la realizzazione del discusso palazzo da 12 piani in via Molinari, confronto acceso in aula tra maggioranza e opposizione sulla delibera che è stata approvata con 24 voti favorevoli e 11 contrari. L'approvazione della delibera era pressoché scontata, ma il palazzo di 12 piani di via Molinari ha ugualmente acceso i toni in Consiglio Comunale a Pordenone. Convocato alle 9, la discussione sul progetto ha occupato l'intera mattinata fino al primo pomeriggio. All'ordine del giorno le delibere presentate dall'assessora all'urbanistica Cristina Mirante, relative all'adozione della variante 21 al piano regolatore e all'approvazione del piano attuativo comunale della zona residenziale dell'area ex Spadotto, dove dovrebbe sorgere il contestato edificio, che prevede un investimento di 5 milioni di euro da parte di un privato. Le opposizioni hanno motivato in più punti la loro contrarietà. L'opera è ritenuta sproporzionata e di eccessivo impatto sul quartiere, contestato a loro dire anche il mancato ascolto dei residenti organizzati con una raccolta firme per dire no al palazzo. Per il sindaco Ciriani un dibattito surreale, la speculazione non è edilizia ma politica. La delibera era stata sospesa nei giorni scorsi accogliendo la richiesta dei gruppi di minoranza ed è tornata in consiglio dopo un passaggio in commissione. La votazione si è conclusa con 11 contrari e 24 favorevoli. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo del discusso progetto dell'ovovia Trieste-Carso. Domani in Consiglio Comunale l'adozione della variante che inserirebbe il tracciato dell'infrastruttura per il tratto Barcola-Bovedo-Opicina. Ma per il Comitato Nuovo Via lo stato del procedimento atto a consentire la realizzazione dell'opera è tuttora incompleto. A mancare, si legge in una nota del Comitato, sono analisi dettagliate dal punto di vista geologico e ambientale e soprattutto in base al pronunciamento della soprintendenza rispetto il parere del Ministero dell'Ambiente che riguarda il divieto di costruzione degli impianti a fune in zone Natura 2000, a meno che non vi siano benefici per la salute o per l'ambiente. Ma nel caso dell'ovovia, afferma l'ex rettore dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia, componente del comitato, verrebbe emessa più CO2 di quanta ne verrebbe risparmiata. Stamane alle ore 11 nella sala del Consiglio Comunale di Trieste sarà conferito il 56esimo San Giusto d'Oro a Gianfranco Sinagra, professore ordinario di cardiologia, direttore del Dipartimento Cardiovascolare di ASUGI e della Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell'Università di Trieste. Il San Giusto d'Oro 2022 al professor Sinagra è un premio a un'eccellenza sanitaria, un medico sempre vicino ai pazienti, un docente appassionato all'insegnamento, un dirigente, si legge nella nota stampa, sotto la cui guida la cardiologia triestina consolidato la sua posizione di punto di riferimento nel settore. Presentato il nuovo portale online Trieste Educazione creato dal Comune. Il portale è già attivo, contiene tutte le informazioni sulle 30 scuole dell'infanzia comunali, i 18 nidi, anche quelli privati convenzionati, gli spazi gioco, i 13 ricreatori del territorio ed ha l'obiettivo di aiutare i cittadini a scegliere meglio la propria struttura educativa e scolastica. Pensato per essere usato anche da cellulare, il portale è diviso in varie sezioni, tra cui una dedicata alle aree educative divise per fasce d'età, un'altra che contiene le informazioni e i link sulle iscrizioni. Presente anche il catalogo di strutture scolastiche comunali e convenzionate che si possono ricercare per tipologia di scuola oppure per indirizzo più vicino. 19 start-up si sono insediate quest'anno nell'Urban Center di Trieste, la casa delle piccole aziende innovative. Il centro si orienta verso il settore biomedicale e verso l'innovazione in campo digitale. È stata la partenza del filone di attività dedicato alle start-up a caratterizzare il 2022 dell'Urban Center di Trieste, il centro di innovazione voluto dal Comune che ha illustrato il bilancio del suo secondo anno di iniziative. Nel corso degli ultimi 12 mesi si sono insediate nell'ex magazzino del Sale 19 start-up, di cui due internazionali, attive nei settori biomedico e dell'innovazione digitale. Sono inoltre proseguite le attività degli altri due filoni del centro, quelle di contaminazione funzionale, per far incontrare il mondo delle imprese innovative con quelli della finanza, della scienza e della cultura, e quella del Fab Lab, il laboratorio aperto a tutti con tecnologie di fabbricazione all'avanguardia come le stampanti 3D. Finora, nel 2022, gli eventi organizzati su temi come la sicurezza informatica per le aziende o l'intelligenza artificiale sono stati 144 con 4.300 partecipanti. Altri 10 eventi si terranno da qui a fine anno. Michele Lobianco, assessore all'innovazione del Comune di Trieste. Questo luogo è un luogo fertile ed è attrattore di tutto un insieme chiaramente di esperienze che si svolgono qui all'interno, quindi è un successo assoluto. Abbiamo già alle porte chiaramente tutta una serie di altri soggetti che chiedono appunto di poter essere ospitati all'interno dell'Urban Center. Serena Tonel, vice sindaco di Trieste. È un luogo che noi vogliamo essere un punto d'incontro sempre più intenso tra la scienza e l'economia, per fare appunto della presenza anche degli enti scientifici e dei ricercatori un valore economico sempre più importante. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Agire sostenibile, una regione consapevole che impara a crescere insieme ai giovani, è il titolo dell'evento in presenza e in streaming che si tiene questa mattina dalle 9.30 a mezzogiorno e mezzo al Teatro Miela di Trieste, organizzato dalla regione attraverso i fondi sociali europei. Nel corso dell'evento la sostenibilità sarà declinata nei tre aspetti principali: sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Alle ore 15 dell'auditorium della nuova biblioteca del Polo Scientifico dell'Università di Udine sarà consegnata la targa al merito professionale Raffaele Testolin, per quasi 30 anni docente di coltivazioni arboree dell'Ateneo Friulano e attualmente in pensione. Il riconoscimento è stato conferito dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dai Dottori Forestali su segnalazione dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia. Nell'occasione Raffaele Testolin terrà una lectio magistralis dal titolo Frutticoltura e viticoltura resilienti, uno sguardo al futuro. Presentata a Udine la prima edizione in friulano del calendario storico dei carabinieri. È una delle pubblicazioni più prestigiose d'Italia, edita ormai dal 1928, oggetto di collezione a livello internazionale. Il calendario storico dei carabinieri, che con il 2023 parlerà anche in marilenghe. L'edizione friulana, in collaborazione tra l'ARMA e l'ARLEF, l'Agenzia regionale per le lingue furlane, è stata presentata a Udine alla Legione Carabinieri dal generale Francesco Azzeni, che ha sottolineato come l'iniziativa suggelli il forte legame dei carabinieri col territorio e la collettività. Quest'anno il calendario propone i temi della tutela ambientale, recepiti anche dalla Costituzione, e propri dei carabinieri, che nel 2017 hanno acquisito le competenze e risorse del Corpo Forestale dello Stato, rendendo così l'Arma la più grande forza di polizia ambientale d'Europa. Il calendario è riconosciuto a livello internazionale come un'icona di ricercatezza grafica. Quella in Marilenghe è una delle 10 lingue in cui è stato tradotto, compreso il cinese, arabo e sardo. Si tratta, è stato sottolineato, di un vero e proprio omaggio alla lingua e cultura dei friulani. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 7.48, vediamo i giornali in edicola, iniziamo con il Piccolo di Trieste che apre sulla sanità con le novità tra centrale 116-117 per le chiamate non urgenti e le case della comunità. Avvia il confronto sul piano dell'assistenza territoriale, il 40% dei residenti, scrive il giornale, ha almeno una patologia cronica, oltre un residente su quattro ha più di 65 anni. Poi temi internazionali, in taglio alto con la fotonotizia, accordo sul tetto del gas, nelle pagine interni, Balcani, Sofia, inchiesta sui gruppi paramilitari, l'ombra russa tra armi e tute mimetiche. Per il dossier lavoro, occupazione in calo per il caro energia, nel terzo trimestre rallenta la crescita, si stima un più 3,2% annuo, intanto gli stipendi restano tra i più bassi del nord-est. La pagina della cronaca cittadina apre con il bilancio comunale, le opposizioni incassano il sì ai loro emendamenti, ok lampo per il bilancio, e poi la cronaca rifiuta al ricovero e partorisce a casa, ora il neonato è in gravi condizioni. Nelle pagine dedicate alla scienza, così i migranti fuggono dal clima, lo studio dell'OGS, le stime su chi sarà obbligato a fuggire entro il 2025 arrivano fino a centinaia di migliaia di persone. Fisco, pensioni e contanti, le misure della manovra. Il Messaggero Veneto di Udine titola in apertura sulla maratona notturna in commissione bilancio alla Camera. Attenzione sugli emendamenti. In alto ci sono due richiami per l'economia. Stipendi bloccati, ma i dipendenti arrivano i bonus. Di fianco la nascita del contratto integrativo negli anni 70 alla Zanussi. Di spalla l'incendio ad Aiello, a Villa Strassoldo, ne abbiamo detto ieri, gravi danni agli affreschi. A Pavia di Udine, dipendenti della Freud a casa senza cassa integrazione, sotto l'accusa di stalking a un avvocato udinese da parte della ex spiata seguita, fotografata. Ad aprire la cronaca cittadina, la NET che concede il bonus ai dipendenti, 3.000 euro in più in busta paga, in 90 ne beneficeranno. A Udine la Tari, dice, cittadinanza attiva si conferma la più bassa d'Italia. Pagina successiva per la fiera, il comune scommette sul rilancio e non cede più le quote. Sul Gazzettino, caserme rurali contro gli incendi, entro il 2024 presidio dei pompieri in montagna, sede ancora da individuare. Di spalla raffica di incidenti, 6 persone ferite ieri in Friuli, sotto l'accordo sulle risorse aggiuntive per i lavoratori della sanità. Uccise la moglie, chiede di andare a processo il marito di Elisabetta Molaro, assassinata a giugno a Codroipo. Questa mattina si sarebbe dovuta tenere l'udienza preliminare. Il Piccolo di Gorizia, vediamo le pagine della cronaca cittadina che aprono sulla società di gestione di Autoporto Interporto. Niente utili dalla SDAG, titola Il Piccolo. Pesano guerra in Ucraina, caro energia e Covid. Si chiude un anno difficile per l'attività portuale, il punto dolente della viabilità. A breve un accordo commerciale con l'Interporto di Trieste e quello di Cervignano. Il sindaco di Gorizia attacca l'opposizione, vuole il gettone di cittadinanza, dice Ziberna, che dice chiedono le sedute alle 17 per chiudere alle 22, usano il 70% del tempo di tutti i consiglieri. Da Staranzano la denuncia di una coppia di pasticceri, tagliate le gomme e il cavo TV, lo storico esercizio preso di mira da un ignoto, staccata la corrente, atti vandalici. Amareggiata la famiglia Franz, da 47 anni in attività, fa la denuncia all'Arma. Sul Gazzettino di Pordenone, nella fotonotizia, c'è il calendario con i ritratti di cittadini over 70, un'iniziativa di Società Operaia e Ascom. Scintille offese, il Consiglio dice sì al grattacielo, volano parole grosse, scoppia anche un giallo, alla maggioranza manca un voto. Accanto per il terzo anno salta il Panevini, il fuoco epifanico, di spalla alla cronaca, si sente male sul tetto, muore operaio di 44 anni, è successo alla Fantoni di Osopola, vittima si chiamava Alfred Ndreka. E a Brugnera, furti nelle case durante la finale dei mondiali. Poi in basso lo sport, tra calcio, giovedì derby Pordenone Triestina e ciclocross. Sul Messaggero Veneto, di spalla c'è il Consiglio Comunale di ieri e il sì al palazzo di 12 piani. Il tema apre la cronaca cittadina insieme ai fondi per l'edilizia scolastica e il possibile accorpamento degli istituti. Sotto si parla del distaccamento rurale dei vigili del fuoco e poi a Sacile di 5 assunzioni in municipio si sono presentati in 485. Si conclude al comunale di Monfalcone stamane alle 10.30 il progetto Rocky History, il potere della parola. Il convegno è stato voluto a conclusione di un intero anno d'attività ed eventi sulla parola e la sua applicazione oggi, soprattutto nel mondo dei giovani. Tra i protagonisti il musicista e autore Federico Dragogna, il CEO di Tsunami Edizioni Eugenio Monti, da Genova il direttore artistico MSC Marco Terreni e dal Friuli il musicista DJ Tubet. Questa sera alle 19 nella sala Luttazzi del Magazzino 26 di Trieste, Calicanto Band, primo esperimento di sport integrato dove ragazzi diversamente abili che crescono insieme nelle diverse discipline sportive ma anche nelle competenze musicali. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano VE o Fevelin D parlerà del corso gratuito tecniche di lavorazione per il trattamento della carta alimentare industriale, 400 ore di cui 160 in stage, composto praticamente assicurato al termine del percorso. A seguire dalle 11.20 a Radar conosciamo da vicino Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021 al Teatro Miela, l'evento Agire Sostenibile. Infine la rubrica Almanacco Scientifico. I programmi regionali tornano poi alle ore 13.29. In regia Tommaso Vinoni e Vassia Crismancic, in redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Anna Vitaliani e Rita Migoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.